non è neanche che bisogna valutare un'iniziativa dal numero delle persone, no? Perché per noi importante era oggi avere Luigi Chieregato ospite con noi, che raccontasse la propria vita anche attraverso questo filmato che potrete vedere, e soprattutto ci raccontasse un po' da dove ha tirato fuori questa vena poetica, questa vena creativa, perché sembra quasi inesauribile, è una persona che si è cimentata in tante forme, no? Ha avuto un pubblico lavoro, quindi una carriera, tutto quanto, ma sicuramente ha una parte della personalità molto creativa, molto artistica, che lo ha spinto ad occuparsi di scrittura, di narrativa, di poesia, di... insomma, la sua fantasia va, ecco, galoppa, lo porta lontano, e a volte è anche un rimedio, no, per tutti noi, quello di poter sognare, inventare e costruire delle cose, no? Poi le ha pubblicate, quindi abbiamo anche in biblioteca parecchi di questi volumi che sono esposti qui, li abbiamo anche messi lì, e quindi il suo contributo, il suo talento è diffuso e conosciuto. Io devo dire che c'è una cosa in particolare che mi è più piaciuta, è questa dell'avventura del fungaiolo pazzo. Ecco, questa avventura che probabilmente parte da un'esperienza realistica. Mi ha sempre incuriosito, ecco, questo, in particolare questo racconto di Luigi Chieregato. Quindi, in pratica, questa mattina, questa ora che passeremo insieme, e che vuole essere un omaggio anche per Luigi Chieregato, per la sua attività, la simpatia, il fatto che appunto è conosciuto e si muove in tanti ambienti, si svolgerà così, ci sarà la proiezione di questo filmato, no? E poi, Monica, cosa dici? E poi ci sarà qualche piccola domanda, ma ecco, lui parlerà sicuramente della sua vita. Racconterà, ecco, come è riuscito, quali sono anche le sue ispirazioni, no? a questi racconti. Siamo curiosi di sapere. Sì, io qualcosa so già, già delle anteprime, però bene, allora... Io ti ringrazio tanto, ma guarda, siamo tutti che dovrebbero capitare, perché ho avuto tante promesse che ci arriveranno. Sì, sì, ecco, va bene. Ti ringrazio tanto, sei stata molto gentile. Grazie a Luigi. Però io comincio a parlare. Va bene, ci vedremo ancora, certo. Sempre disponibile. Grazie. Buona mattinata allora, mi metto qua con voi. Bene, signor Chieregato, siamo qui, buongiorno a tutti, mandiamo delle belle immagini in questo momento, sono le immagini della sua casa, cos'è, il suo ufficio, dove lavora, dove scrive, cosa fa qui? Io ho lo studio, insomma una stanza di quelle, diciamo, delle nostre case dell'IPES, ecco, e da lì io ho originato il mio studio, dove raccolgo insieme sia il materiale del lavoro sia il materiale che ricevo come premio, come riconoscimenti, trofei, eccetera eccetera, tutto insieme, ecco. E poi le pareti sono piene di diplomi, di riconoscimenti, ecco, e naturalmente lì è la mia vita, dove che la mia creazione, dove che io di giorno, dove vado, dove non vado, raccolgo episodi, interrogo per gente che conosco, che non conosco, ti va bene questo, ti va bene quello, ti va bene quello, sempre in campo letterario, lasciando da parte la politica, era per tutto, perché la politica per me è sempre stata un veleno ad ogni modo. Ecco, questo è tutto. Come creazione, certo che non lo sapevo io e non me ne sono accorto, che in me c'era questo di questa innata disciplina che ha sopraffatto le altre tre discipline che ne ero tanto innamorato, anche perché avevo trovato degli amici che mi aiutavano per riuscire a spuntarla, che sarebbe la musica e il canto, perché in me avevano trovato una voce alta, potente, vero, nel primo luogo, e dall'altro lato c'era che io non avevo la possibilità di studiare, però loro avevano, ad esempio, Benziono Mascagni, che è sempre stato il mio padre, fratello, prediletto, perché tutto quanto quello che poteva fare me lo faceva, tant'è vero che a un certo punto mi ha detto: pur che tu continui a frequentare la musica e il canto, perché hai tutto gratuito le lezioni, ti regalo anche il pianoforte. Qui abbiamo invece una macchina per scrivere. Sì, ma scrive sì. Con la macchina per scrivere? Sì, sì, sì, sì. Però ecco, adesso ti porti su un altro argomento che purtroppo mi sta molto a cuore. Io sono difettato di ipermetropia. Che non c'è nessun rimedio per ripararla. E allora, il primo tempo riuscivo a scrivere con la macchina, ma creavo troppi problemi, troppi errori, perché quando io parto per andare sul tasto A, per dire, vado a finire sulla Z, perché l'ombra che passa davanti all'occhio è movibile, perciò io non posso, e quindi creavo tanti problemi, e naturalmente quando che mandavo i libri ai concorsi lamentavano tutti questi errori. E allora io mi sono fatto un po' vivo, dico: guardate, tanto io ho sempre ricevuto i premi di bella scrittura, dico, se è possibile accettare ai concorsi anche se scrivo a mano. Ma non scrivo. Purché, dice, lei concorra, perché a noi ci interessa che concorra, noi accettiamo anche quelli scritti a mano. Però, dice, ci faccia una pagina di come è la sua scrittura. Io mandavo la pagina della mia scrittura e loro dicevano: benissimo! E così allora io mi sono animato e ci ho dato dentro, e sono arrivato a creare, mi pare che siano già 35.000 pagine a quest'ora che ho scritto a pena. Quindi amore, pazienza, eccetera, eccetera, per la letteratura. Nel campo musicale invece è successo purtroppo che dopo quasi 10 anni che studiavo musica e canto, Mascagni aveva organizzato, aiutami a dirlo, perché il primo saggio, no? Ed ero appena uscito dal sanatorio, ero appena uscito. E allora, però naturalmente lì anche ero malato forte, perché non ho fatto altro che andare dentro cliniche, ospedali, sanatori, anche il manicomio, che non lo nascondo, la guerra mi aveva ridotto in quelle condizioni, la prigionia, c'è poco da dire, no, ecco. Comunque, e allora cos'è successo? Che facciamo il saggio, ed ero molto timido, ero... Allora, cosa ha fatto Mascagni? Ha fatto che ha spento tutte le luci della sala, ha fatto il leggio e ha messo la luce ad ombra, no? E ha spento tutto, di modo che io ho incominciato a cantare con i suoi segni, d'accordo? Ecco, quando che ero già avviato, allora si sono accese tutte le luci, però un silenzio di tomba. E per quella volta, come saggio, è stato Le tristezze di Chopin. Che le conoscerete, Le tristezze di Chopin. Ecco, e l'ho spuntata benissimo, solo che dopo poco tempo sono andato a finire un'altra volta in sanatorio, e allora da lì primario del sanatorio, quando mi ha congedato mi ha detto: guarda, tu sei guarito, stai abbastanza bene adesso, siamo molto contenti del risultato, però dice: tu non puoi più andare avanti con lo studio, perché è una questione la musica, il canto. E così ho dovuto rinunciare a quelle due discipline. Allora, tutto quello che era l'interessamento verso queste due discipline l'ho versato nella letteratura. Ecco perché sono riuscito col tempo a produrre così tanto lavoro, perché praticamente fino adesso risulta che ho scritto oltre 150 libri. Però risulta. Qualche titolo? Il sole allo zenith. Prego. Il sole allo zenith. Cosa ci vuole dire del sole allo zenith? Il sole allo zenith. No, ecco, questo qui è stato che quando io sono arrivato a Bolzano nel 1940 non conoscevo niente di Bolzano. Poi ho scritto il libro Come ho trovato Bolzano, ne hanno proibito la pubblicazione i fascisti. Per me è andata bene lo stesso. Ecco, ero da solo, non conoscevo nessuno. Allora le mie ore sono state date dal fatto che dovevo consumare il mio tempo libero quasi, e andavo, che avevo scoperto che c'era il lago di Monticolo, avevo scoperto, e lì tutte le mie ore erano intorno a questo lago che stavo. Ecco, lì sono state anche cose emozionanti, perché attorno al lago c'erano le anatre, c'erano gli uccelli, e al mattino specialmente era tutto un cinguettio di uccelli, no? Che mi svegliavano certe cose che non me ne sognavo, no? Ecco. E passavo anche tutta la giornata intera, quindi l'arco del sole era, quando arrivava il mezzogiorno, vedevo tutti questi riflessi sulle piccole onde, che sembrava un lenzuolo di cristalli che riflettevano. Allora il sole allo zenith, no? Picchia sul lago di Monticolo, e lì è nata la storia del lago di Monticolo, che poi è stata anche una storia molto sensibile, molto emozionante. Perché? Perché attorno al lago ho conosciuto diciamo, intimità, e col vecchietto che abitava nel castello. E ho fatto amicizia, poi dopo ho fatto amicizia con Luigi Trenca, ero già amico da prima, e là ci si trovava e si parlava di questo e di quello. Quindi la mia vita fino dal 43 era legata al lago di Monticolo, e poi dopo c'è stato tutto il seguito fino che mi ha portato alla scrittura di quel libro lì. Di quello lì. Ma perché è nato quello lì? Perché il giorno dopo la Pasqua, vero, il coro di Laibes festeggiava la festa del coro, e la festeggiava proprio lì al lago di Monticolo. In una mattina passavo di proprio lì in questi giorni, ed ero assieme con una ragazza che si trovava a Bolzano per puro caso. No, ma io non sapevo niente della ragazza, e si è accodata con me a camminare in mezzo al bosco per arrivare al lago di Monticolo, che veniva da Padova, ma non sapevo altro. E naturalmente, camminando a lungo questo sentiero, non so che se conoscete, che dal lago orientale c'è quella piccola insenatura che c'è. Praticello, e lì facevano questa festa tutti quanti. Quando mi hanno visto arrivare con la signora, mi sono venuti incontro col bicchiere. Maestro, dice, c'è anche per lei il benvenuto. E così abbiamo un po' festeggiato diciamo, l'incontro. Si parlava di questo e di quello, e la ragazza diceva: ma lei ha tutte queste conoscenze della mia vita. E parlando del più del meno, siamo poi camminati fuori fino ad arrivare all'altezza dove c'era il castello, no? E fa lei, non sapeva come chiamarmi, e dopo ho detto mi chiamo Luigi. E allora mi dice: Luigi, dice, è possibile andare a visitare quel castelletto? Allora, prima ci ho fatto l'introduzione, poi ci siamo andati. Naturalmente che il sparer mi fa un sacco di complimenti, e si complimenta anche con la ragazza, si complimenta. Era convinto che la ragazza mi apparteneva. Ecco, lì è stato il momento. Quindi allora parla questo, parla quello, e ci era affezionato alla ragazza più di me. Così tutte le volte che io scendevo a Monticolo dovevo passare da questo sfano. E quindi tutto l'insieme degli incontri con lo Sparer, Luigi Trenker e altri personaggi, ho messo insieme e ho realizzato questo libretto, che poi è stato un grande successo, perché è già con la seconda edizione questo. Però è emozionante, perché tocca molto sul vivo quello che vuol dire l'amore perduto e non perduto. Ah, amore perduto. Qui stiamo mostrando delle immagini di un suo film che parla di amore perduto. Quello che è la fondamentale del discorso è l'amore perduto, cioè alla fin fine questa ragazza si era innamorata e non sapeva che io non avevo nessuna intenzione di lei, però lei si è lasciata andare fino al punto che poi dopo c'è stato il connubio. Che rivelazione, ma io non sapevo che lei era una dottoressa dell'ospedale di Padova, comunque che è vicino alla stazione. E allora è venuto che lei gli ha raccontato tutta la sua storia. E mi ha commosso quando mi ha detto, scusami, ma guarda che io ti devo dire che sono figlia di un mezzo vescovo. Mezzo? Mezzo vescovo, sono uno che è un prelato, ma lei ha detto mezzo vescovo. E io naturalmente, caspita, ma come si spiega? Allora mi ha spiegato la situazione, e allora anche lì ho scritto la storia, tutto quanto, lì c'è scritto insieme tutti questi incontri. Alla fin fine lei è andata via da Bolzano, però, e con lasciato per dire noi due non ci vediamo più, non ci vediamo. Che non ci vediamo più, c'era l'altro Gesù Cristo, chi si è visto. Però io avevo paura che lei fosse rimasta in stati interessanti. Addirittura. Però è una dottoressa e non so se mi spiego. Capite? Non so se mi spiego. Il fatto è stato che poi dopo non era vero, o sia stato vero, lei era sciolta. Però rotto tutto, e da lì finito ogni incontro. Succede che nell'arco degli anni io sono ritornato a Padova, perché a Padova andavo ogni 15 giorni alle conferenze letterarie all'università. E allora, passando dall'università, andare alla stazione, lì c'era nell'angolo un piccolo bar dove che io solitamente, prima di prendere il treno, andavo a consumarmi una bibita o un caffè. Il fatto poi che quando sono andato lì a prendere il caffè dopo tanti anni, mi sono trovato sul tavolino che c'era anche lei, ma io non la conoscevo più quel tempo, perché era diventata grigia, era sempre una gran bella donna, ma era i capelli grigi, e il rapporto sembrava che qualche cosa dicesse, però non c'è stato niente, non c'è stato. Al momento in cui io l'ho lasciata per andare in stazione, non sapevo che era lei, l'ho immaginato dopo, perché quando io ho attraversato la strada che mi voltavo, la vedevo che lei era la vetrata che mi seguiva alle spalle, e allora ho immaginato che doveva essere lei. Questo un po' di insieme. Si è chiusa la storia, insomma, in questo modo. Bene, il pensionato Fungaiolo invece? Il Fugaiolo, ecco, questo qui, quando sono arrivato a Bolzano, io di montagna, la montagna la sognavo, però i funghi sentivo parlare, ma non ne avevo affatto la conoscenza. Ma pian pianetto, sentendo parlare che allora c'era la scuola Bresaola, andavo a frequentare, perché il mio coso era quello di imparare, di conoscere, di sapere, di capire, di sentire, raccontare. Era coglievo, perché ero accorto di avere una forte... qualche cosa che non lo credevo, di memoria, è una potenza di memoria grandissima. Memorizzavo senza bisogno di prendere appunti. E così mi sono invogliato. Dove andare? Non sapevo dove andare. E ho invocato proprio, cioè invocato, mi è capitato di andare proprio nella Valle del Lupo. Non so se sapete dov'è. Ecco, nella Valle del Lupo. Quindi, allora, dal colle si va di dietro del monte e c'è la strada che porta a Nova Ponente. A un certo tratto c'è una baita al lato sinistro. Tutto quello che è la costa del monte è la Valle del Lupo. E lì ho incontrato l'avventura proprio come la storia l'ho scritta. Ma i funghi poi li ha trovati anche? Prego? I funghi c'erano? Appunto, sono stati i funghi che li hanno messo e di copato nei confronti di questa lupo che era il terrore e li descrivo tutto fino alla conclusione di quella che è stata tutta la mia passeggiata e la mia vita, e appunto infatti, l'avventura del pensionato Fugaiolo. Invece più misterioso, giusto, lo dice anche il titolo, è Mistero fra i Monti. Ecco, il mistero fra i monti non è che sia un mistero vero e proprio, ma solo è che ho scoperto che tra le nostre montagne, in un paesino di montagna, all'uscire di una valle c'era un ristorante e di ritrovo dei contadini, andavano su e lì è successo un pandemonio tra i ragazzi e questo e quello. E questo complesso di cose, che poi c'è stato anche un po' di sanguinario, perché si battevano fra di loro, eccetera, eccetera, mi hanno ispirato di scrivere appunto il mistero. Perché il mistero fra i monti vuol dire che io non credevo che fra i nostri monti ci fossero anche questi lati oscuri. Ecco, tutto lì praticamente. Perfetto. Adesso invece, stavo dicendo prima, che stiamo facendo vedere delle immagini di alcuni film. Di alcuni film, suoi film, no? Qui appunto c'è l'amore perduto, per quello che dicevo, no? C'è un amore perduto qui, no? Un amore di gioventù, e lei percorre poi tutta la strada che aveva fatto con la ragazza, no? Se non ho capito male. Di che film si tratta, se lo ricorda il titolo? Perché io adesso non lo ricordo. Quale ragazza? Questa ragazza. È questo qua. Sì, esatto. Ecco. Allora, è andata che qui a Bolzano c'erano tanti che si prestavano a diventare registi cinematografici. Allora, un bel giorno mi sono trovato, non mi ricordo se era nella sala del comune, e mi si sono presentati due o tre di questi registi e mi hanno detto senti, tu hai un aspetto che a noi ci interessa molto, vorresti adattarti oppure accettare che noi facciamo un film, che facciamo questo e quello? Sì, dicono. Ma che tipo di collaborazione li cercavano? Ecco, cercavano un soggetto che soddisfasse quelle che erano le loro immaginazioni sul film che avrebbero voluto fare, no? Ecco, allora, questo qui, ecco. Questo è il lento scorrere, no? Questo è il primo, no? Questo qui l'ha filmato un certo, come si chiama, Truzzi. Un certo Truzzi. E lui ha detto: io ti voglio perché sei un elemento che mi piaci, lo vorresti? E dico: sì, però dico, c'è da rompersi la testa, no? Ha detto: cioè, perché tu lavori già nel teatro, perché facevo anche teatro, però dice, nel film è tutto diverso. Dice: non ti preoccupare, perché dice, nel film si corregge tutto comodamente. E va bene, dico. E allora abbiamo realizzato questo film, che praticamente la ragazza è la sorella del regista, cioè cognata del regista, ecco, chi sarebbe lui, questo, il regista, il fratello del regista, chi sarebbe sua moglie, che è la sorella della del Carmagnan, quella che parla a Tigitre. Allora abbiamo incominciato neanche tanta preparazione, sono venuti a casa, mi hanno preso di domenica in macchina e mi hanno portato nel luogo che sarebbe a Trento, dalla parte andando giù a destra prima di arrivare alla Trento Nord, no? Come si chiama lì, qualche cosa, comunque dentro sotto una valle trovato, e qui il posto l'ha trovato il regista, ha fatto tutto lui, e abbiamo realizzato questo film, questo sarebbe, diciamo, il film che dunque il tempo scorre, il lento scorre. Però ha partecipato anche a altri film. Prego. Ha partecipato anche a altri film come attore. Beh, io dunque che è stato sei, mi pare che siano stati, perché ho fatto questo Lento scorrere, poi ho fatto l'educazione in SAS per il comportamento nei trasporti pubblici, il comportamento, ma quello è proprio un film che è, diciamo, documentario, ho proprio documentato ben bene, ma un altro regista questo. Mm-hmm. Poi ho fatto Il rumore dei passi, che è un bel documentario, e poi ho fatto dunque Il rumore dei passi, Un pellegrino sul Calvario. Ma Il pellegrino sul Calvario ho fatto, e diversi altri, comunque 8 o 10 mi pare di averli fatti. Poi dopo hanno incominciato i registi, e l'ultimo, quello che ha interessato tutti, è stato quando io ho interpretato il cardinale vecchissimo nel Collegio Romano, che ho interpretato a teatro, questo però. Questo al teatro, ma è stato da lì che loro hanno preso diciamo, la mira sul mio personaggio. Certo. Quando che hanno visto, diciamo, che ho interpretato il mio ruolo proprio conforme che loro lo intendevano, ci piaceva praticamente, ecco. E lì, e dopo si è fatto tutto un insieme che dappertutto dove andavo c'era sempre un filmetto da realizzare, ecco, e siamo arrivati a... Questo è tutto quello che riguarda. Poi c'è altra domanda. Questo era il cardinale, mi ha detto, in Vita di Galileo. Mi prego, male questa parte teatrale. Vita di Galileo. La vita, ecco, questa qua sarebbe stata La vita di Galileo Galilei, sì. Era commedia di Victor Brecht, ecco. Anche questo qui è stato un caso, perché ero in studio e una bella sera sono arrivati tre, e ho chiesto cosa volevano, e allora dice, signor ragazzo, stiamo realizzando una commedia, dice, che come artisti riusciamo qui tutti a farcela franca, dice, però ci manca il cardinale vecchissimo. Dico, e siete venuti da me, dico, no? Io avevo già quasi 80 anni, da me. Dice, sì, perché dice il nostro regista ha detto tanti là che quello là sarebbe quello giusto, eccetera. Quello non ha bisogno di trucchi, non ha bisogno di trucchi quello là. Ecco, e così praticamente, dico, ma io, ragazzi, dico, quasi 80 anni, adesso dico, non ho più voglia di mettermi in moto una cosa e l'altra, questo e quello, no? E sono andati via delusi. Ecco, il tratto dal dove ero io nell'angolo del mio studio fino alla porta erano proprio, vedevo che ero delusi della faccenda. Era messo un minuto alla mente. Dico, ma porca la mattina, dico, no? Ah, dico, adesso, ragazzi, fermatevi, vengo di nuovo voi. Dice, ma... cosa è scattato? Quando è comincia la scuola? Dice, venerdì. Allora, venerdì sono con voi. Loro non sapevano il perché, ma io avevo nella mente che a 12 anni il parroco del mio paese, io avevo chiesto di aiutarmi per la carriera ecclesiastica. E lui me l'ha rifiutata. Mi ha detto, ma dai, ma sei figlio di contadini, diverrai un bravo contadino, una cosa l'altra, questo e quello. Dico, insomma, dico, me la dà o non me la dà questa soddisfazione? Ma dai, dai, dai, dai. No? E allora mi fa, dice, che vuoi diventare prete, vuoi diventare cardinale, vuoi diventare vescovo? Dico, da vescovo, dico, perché no cardinale? E con questa parola sono uscito e lui, e dopo mi trattava da matto, mica è... Naturalmente, pensando a quello, adesso è stato che finalmente ho il motivo, non per le stesse cose, ma il motivo di indossare la porpora. Certo. E l'ho indossata interpretando questo ruolo, che c'è la fotografia. Ecco, ed è stata la proiezione al Castello Arezzo. È stata la proiezione. Bene. E invece adesso io ho visto un manoscritto bello grosso. Prego. In biblioteca mi ha portato un bel manoscritto grosso grosso. Ah, cosa sta sì. Lavorando? Quello lì, ecco, proprio l'altra sera mi ha telefonato il presidente della giuria dello studio dove io sono affiliato da anni per lo studio, gli studi danteschi alla Spezia. E mi ha telefonato, dice, dottore, dice, guardi che fra qualche giorno, dice, le manderò il diploma. Dice, abbiamo ritardato per motivi che sono, ecco, quello lì, beh, la verità è un libro un po' quasi per sfottere un pochettino la sostanza dei stupidi discorsi dei baccani, dei contadini, dell'Alto Adige. Ah. Infatti il titolo è Una beffa, no? Sì. Ecco, quello lì sarebbe quello che ho presentato, l'ultimo che ho presentato al concorso. E se per caso dovesse venire premiato, probabilmente ci sarà la possibilità di pubblicarlo, perché c'è qualcuno che mi fa il suo edito sotto. Non ci può anticipare niente di più? Prego? Nessuna anticipazione in più su questo manoscritto? Qualcosa in più? Beh, praticamente è che in un punto dell'Alto Adige, in mezzo alle montagne, c'era questo vaso sperduto che era come una contrada, isola proprio, che era fuori di tutti i contatti. E lì c'era questo contadino, cioè io diciamo contadino che sarebbe padrone del vaso, che aveva questa figlia, una figlia unica, ed era in collera per il fatto che lui aspettava l'erede un maschio, e invece non veniva mai. No, ecco. La figlia l'ha fatta studiare a Heidelberg. Ho preso tutti i punti degli episodi, mica me li sono inventati, sono andati alla ricerca. Ecco, e le aveva fatta studiare lì. Era stata lì in una casa dove che affluivano gli studenti che dava spazio, che so io. Però era successo un fenomeno che nessuno lo sapeva, ma neanche le studentine lo sapevano, che il padrone di casa, senza che lo sapessero le studentine, le rendeva immuni dalla procreazione. E come faceva? No, bisogna leggerlo, sennò diciamo troppo. Comunque praticamente, no? Ecco, però insomma che era italiana, erano tedeschi, erano svedesi, una cosa e l'altra, non si comunicavano fra di loro. Il tempo è passato e si sono trovate, ma senza sapere cos'era. No, ecco, questo è stato, diciamo, l'inizio del racconto proprio. Ecco. Naturalmente, cos'è successo? Che a Bolzano c'era un signore, poveraccio, che lavorava alla Lancia e era bravo per realizzare dei brevetti. In 4 e 48 ha fatto un sacco di soldi. È venuto che ha incontrato questa ragazza insieme alla famiglia, se ne è innamorato, però lei non era facile da innamorarsi, non era facile perché aveva questo contenzioso, perché lei lo sapeva, lei sapeva che era in queste condizioni, che non era sterile, sì. Era sterile. E lui si è innamorato, ma lei non l'ha detto né al padre né alla madre e né a questo ragazzo. E gli è venuto il calderone. Calderone, fino a che a un certo momento sono è un po' lungo il discorso, no? Beh, il finale non lo vogliamo sapere. Ecco, e il finale è che ecco, e il finale è che hanno scoperto che si sono scoperti l'uno con l'altro, lui è rimasto deluso e poi ha lasciato andare quello che erano le sue. Continuava a realizzare brevetti, però era sempre un randagio senza piccia dimora. Lei invece praticamente l'ha sposato ugualmente, si sono sposati e si sono andati a abitare a Cornaiano, in una villa a Cornaiano. E lì è avvenuto il giorno in cui praticamente lei per vendicarsi aveva invitato questo signore, che l'aveva scoperto, a venire a casa sua, che sarebbe successo, ma ormai lui era anziano. E lì si ritirano nella stanza. Lui era convinto di realizzare il rubio, però praticamente mi voglio solo quello che sono. No? Ecco, lei si era preparata col pugnale sotto il cuscino. Lui invece sotto il cuscino aveva la pistola. Quindi, ecco, quindi era intuito che volevano eliminarsi a vicenda. Volevano eliminarsi a vicenda. Alla fin fine è successo che qualche duro ha fatto voce, è arrivata la polizia lì sul cancello, hanno preso questo uomo e l'hanno arrestato perché era fatto la spia. Lei cosa doveva fare? Ormai che era tutto nero quello che lo circondava, è uscita di casa, è passata davanti al marito, è passata davanti alla donna di servizio, ha girato sul monte ed è andato sul crinale che divide con l'Adige, e loro l'hanno seguita. Quando è stata là è scesa giù dall'altra parte, e da quel momento non si è più saputo dove si è andato a finire, così si chiude il discorso. Ha già un progetto? Prego? Un nuovo progetto c'è già? Ma io dei progetti, delle avventure letterarie ho tante. Ecco, allora il progetto che ho adesso è proprio l'originalità di questa foto. Appena arrivato a Bolzano, ho scoperto che il monumento a Walter von Vogelweider era di dietro ai giardini Gilbert. E io, che ero senza famiglia, andavo alle sere su quelle panche lì a passarmela via. E mi è rimasto impresso vedere questo monumento là in quell'angolo, così tutto insudiciato, e venivano fuori dal cinema, che c'era il cinema Dante, voi non l'avete visto il cinema Dante, e lì c'era qualche cosa di loro proprio, no? E dico, ma guarda un pochettino questo monumento, dico, dove si trova? E pensando, ma caspita, se tutti gli artisti oppure gli uomini grandi di questo mondo facessero quella fine lì. Ecco, e mi ha un po' toccato la sensibilità di attore, praticamente è autore. E l'ho seguito che a un certo momento mi battevo con i contadini. Ma perché cosa? Perché allora c'era la lotta tra quel fascismo, no? Che l'avevano portato via dalla piazza Walter e l'hanno messo lì perché al suo posto, in centro della cosa, sarebbe stato posto il busto di Vittorio Emanuele che era il vincitore della guerra 15-18, che non volevano ammettere che fosse stato il vincitore. Allora mi battevo anche per dire: guarda, che con il trattato di pace c'erano tutti i belligeranti, non era colpa dell'Italia sola se il confine è stato decretato al Reno, perché sono stati tutti d'accordo. Perciò resta inutile che voi abbiate questo odio profondo contro gli italiani. Dicevo: questa è terra nostra, però, dico, è vero, dico, è vostra, ci abitate voi, ma l'Alto Adige non è mai stata una zona con giurisdizione statale, di Stato. Perciò voi siete stati sempre dimenticati, sempre un'etnia. Allora loro si mettevano contro di me perché io trovavo tutte queste belle cosettine, queste scoperte, no? E alla fine è venuto fuori la storia del monumento. Io tanto è vero che il monumento non era così ricco come adesso che ce l'abbiamo, perché gli altoatesini vanno a mungere la vacca a Roma fino a che ce l'ate, dicono, e sono della qualità, dico, sono della qualità che non soltanto sputano su quello che mangiano, ma ci fanno anche il resto. Perciò dico, questa è la mancanza di cultura, di arte, di conoscenza che hanno nella mente questa gente. E allora loro mi dicevano, grande, weißt du, Lügmensch, cioè praticamente ero il welche falso, il welche bugiardo. Allora io sono andato alla ricerca fino che ho potuto e ho trovato quella foto lì, dimostrando che non era neanche il centro della piazza. E loro dicevano che era il centro della piazza. Ecco, tutto lì siede e parla di queste cose qui. Però il lavoro è introdotto nell'opera che la finirò verso aprile-maggio, e sono già d'accordo che la pubblicano, da Parigi alle Dolomiti, il Radice, che c'è anche la foto della Radice, che sarebbe in questo... Guarda che la prendo, eh? Prego? Parada, la prendo. Eccola qua. Mettiamo qua, così la vedono tutti. Allora, cos'è questa Radice? Ecco. Praticamente... Il lavoro è da Parigi alle Dolomiti. Ecco, perché da Parigi alle Dolomiti? Perché io ero stato, cioè sono stato due volte in Francia e ho visitato tanti luoghi, ma naturalmente quello che mi interessava era l'intorno alla Torre Eiffel. No? Perché adesso non c'è più, ma a un tempo, nei quei tempi, c'era un piccolo centro che lo chiamavano i Bassi Fondi, e lì in questi Bassi Fondi c'erano italiani, c'erano tutte le sorti della gente, e questo ragazzino è apparso in mezzo a questa gente senza sapere di chi era figlio, di chi era io. E allora io ho voluto andare alla ricerca se questo ragazzo era dei genitori, appunto parlo della Radice. Cos'è successo? Che con l'interrogare la gente a Parigi nei dintorni, e soprattutto l'avevano capita loro che venivano a chiedermi se avevo bisogno di informazioni, e sono stato informato di quello che era la sua natura, di questo ragazzino, cioè che lui cresceva in mezzo a questa gente, ma sapeva di non essere francese, ma comunque sentiva un'attrazione verso l'Italia. E allora io descrivo tutto quanto il suo tragitto dal momento in cui è partito da Parigi ed è arrivato fino a Bolzano. Però l'uccello bianco, che era l'immaginazione dello spirito della musa, che ne trasmetteva tutta la sua storia, fino a che dal confine e fino a Bolzano le ha sorvolato tutti i paesi, la regione della Valdosta, il Piemonte, la Lombardia, la Vernina, tutto fino a che è arrivato nell'arco di Verona, della Lombardia, è rientrato, ci ha fatto tutto sempre sorvolato, e lì descrivo i paesi che incontrano sotto, che dava appunto il Lucello Bianco, che era la musa, il visionario, le diceva: guarda, quello è il paese così, quello è il paese così, tra una domanda e una risposta. Alla fine del viaggio, era che ormai lui era stanco, questo ragazzino sulle ali, era stanco, l'ha posato su una panca in piazza Walter, no, dal lato sinistro venendo da sud. E lì, addormentato come era il Walter, l'ha interrogato e si sono messi in contatto e fatto il loro discorso tutta la notte continua. Quindi il ragazzo ha raccontato del suo viaggio. Alla fine che è arrivato ad raccontare del suo viaggio fino al punto in cui l'uccello l'ha depositato sulla panca, Panther le dice: adesso ti racconto la mia storia. E ci ha raccontato tutta la storia, e quindi sto portando a termine il racconto storico dell'incontro fra di loro due. Alla fine, quando è il lunedì mattina, perché c'era la cosa, in piazza Walter c'era la festa del minerologo Dolonier, che la fanno ogni 2 anni, no? E quindi loro ci se la sono raccontata tutta durante la notte, senza tanto accorgersene di quel che era il tafferuglio, il casino che c'era nella piazza. Alla fine cosa succede? Che viene il lunedì mattina, quando è l'ora della partenza, che il ragazzino si sveglia e attraversa la piazza. Ormai avevo tutto portato via, fatto ordine. Quando che entra nella stradetta che allora si chiamava via Pietro Meca, no? A 2 o 3 passi dentro si volta e si gira e lo guarda, ha detto: tu non sei niente, non sei mai stato niente, non sei mai stato. Allora quell'altro è stato zitto. Perché ci ha detto non sei niente? Perché non è il Walter che ce l'ha, non è il vero Walter, perché il vero Walter non è mai stato mai trovato, ma c'è la supposizione, che sarebbe quella che descrive il ragazzino. Quindi dall'inizio del confine e fino a Bolzano, tutto quello che è stato il tratto che hanno sorvolato è tutto scritto in versi. In versi, è un poema, adesso non ricordo se sono 500 o 600 terzine, grande. E quello praticamente, prima di metterlo sul libro, l'avevo già scritto e l'ho fatto presente, ha preso il premio letterario, ha preso. E mi è stato dato il monumento di Dante d'argento, oppure placcato in argento, con su scritto una vita per la poesia. Allora tutto l'insieme ho messo, quando poi questo ragazzo è uscito, che andava verso, perché andava sempre verso Oriente, andava, cioè era attratto da quelle parti d'Oriente. A un certo punto, quando che ha trattato, che è stata l'ultima volta che si è incontrato quel personaggio che lo portava avanti e indietro sempre in miniatura, viene abbandonato durante la notte, il temporale, e fa comparso questo trovatore. Allora lui continua, quando che è un piccolo tratto via da questo porto, allora lì apre le braccia e vede le meraviglie dell'Alto Adige, allora dice, comincia con queste parole: nel cuore delle Dolomiti là, dove più bello m'addentrai, nella selva selvosa d'alberelli fitti fitti, ero in un sogno che non pensai, poiché m'assalì sì tanto d'improvviso che io non temetti d'alcuni guai. Giunsi colà dov'era il paradiso, che l'uomo l'ebbe conosciuto, a me invece fece il dolce sorriso. In prima credevo di essermi perduto, ma invece quattro cervi con i piedi e i zoccoli dorati mi vennero appresso frusciando fra lo smuto, eccetera, eccetera, continua. Fino che lui arriva a trovare la sua contrada e lì è dove che si pianta, appunto trova la radice, l'origine della sua famiglia. Bene, con questo cosa facciamo? Concludiamo? Solo che mi è dispiaciuto, io ho, non so come ringraziare i presenti che sono pochi, però ho capito che molta gente, però davanti e di dietro, ecco qua, perché se tutti quanti quelli che gli hanno promesso che sarebbero venuti, tant'è vero che alla Francesca ho detto, saranno poche, dico, le sedie, invece guarda, ecco, quindi c'è da aspettarsi solo di questo. Beh, comunque a noi ha fatto piacere essere qua, salutiamo tutti e concludiamo qui. Abbiamo una domanda. Quando è stato portato via il monumento di Walter von der Fugger-Weiler dalla Piazza Walter in là, di là dove l'avevamo messo poi? È stato portato via con la vittoria del 1518. Allora? Sì, perché praticamente il monumento di Walter, col monumento di Walter piazzato in piazza Walter, no? Hanno spedito, cioè fatto sloggiare la Madonna, perché Bolzano già da allora era dedicata alla Madonna, sì. No, e quella Madonna l'hanno portata davanti al coso, no? Dove c'è le scuole Cairoli, quella piazzetta lì che c'è la Madonna, quella era la Madonna che stava in piazza Walter, ecco, sempre nello stesso posto. Allora in che anno è che hanno spostato il monumento? Perché prima il monumento Walter von der Fugger-Weiler era in piazza Walter, no? Ma non nel centro della piazza, era nell'angolo tra l'albergo città e quella è il lato. E l'hanno portato via subito dopo la vittoria della prima guerra mondiale. Della prima guerra mondiale. Per fare posto al busto di Vittorio Emanuele III. Che guarda caso, non sono ancora riuscito a scoprire in che punto era il busto, perché io che ero delle poste, non l'ho mai visto quel busto. Altre domande? Io ho un'altra domanda sul libro. Io anni fa ho letto quel libro lì del Il Sole e Buda. Lo Zenith sulla che mi è piaciuto molto, molto, un racconto molto interessante, molto bello. Ho osservato che c'erano delle frasi scritte in tedesco, così, qualche frasetta qua e là, no? E ho notato che si tratta di un tedesco corretto, che potrebbe essere anche tedesco dialettale, adesso io non me lo ricordo, no? Era così, era inteso di scrivere, intendevi scrivere un tedesco così dialettale come è qui, ecco, anche perché ho subito visto che questo era un tedesco scorretto, no? Appunto. E allora si vede che ha avuto intenzione di scrivere in una forma dialettale. No, ecco, attento Franco, in quel tempo là, quando sono salito io a Bolzano, no, il tedesco, quello parlato in Alto Adige, era ancora peggio dell'incontro tra i bergamaschi e i milanesi, no? Ecco, peggio, quindi, perché ogni piccolo luogo avevano un dialetto proprio, tanto è vero che non si capivano la Val Passiria con la Val Pusteria, eccetera, eccetera. Poi lo parlavano in maniera che sembrava che avessero sempre la bocca piena di canela lì. Ecco, non si capiva proprio niente, era difficile. Tant'è vero che quando uno parlava in tedesco, gli altri dicevano, tu parli, te parli molto tedesco come quelli della della Bassa Tesina. Sì, sì. Ecco, Astro che segni Caura Benchi Balocchi Dau, ecco la famosa, dando sesto ti, toi, è vero. Quindi era un dialetto perché non ci si capiva. Ecco perché anche il fascismo aveva pensato di introdurre la scuola di lingua italiana perfetta. Allora, oltre questo c'erano gli italiani di tutte le province d'Italia, ecco, e ognuno parlava il proprio dialetto e quindi era un calderone grande. Tra l'altro, non so se voi l'avete saputo, no? Il fascismo, a parte quello che erano, aveva introdotto in Italia la resurrezione del linguaggio voi, il voi, perché il voi era di origine romantica, del romano, perché i romani parlavano col voi, no? Ecco. Allora, cosa era successo? Che ormai con l'entrata in Italia di Napoleone ha introdotto in Italia il lei, che era del linguaggio francese, no? Quindi si parlava con lei, il voi era sparito completamente, lo si usava soltanto nelle chiese, nei punti della base, no, era sparito. Allora, con l'introduzione del voi, cosa è successo? Che tutti gli uffici di importanza hanno preso degli studiosi che conoscevano il voi, il lei e che so io, degli interpreti, e quindi i direttori, i capi degli uffici avevano bisogno di questi interpreti per fare la traduzione dal lei al voi, dal voi al lei. Era un calderonico, perché quando si entrava negli uffici non sapevi se dire vostra eccellenza o sua eccellenza. L'uso del dare a voi è uno di recente, non so se uno si usa più, ma recentemente ancora si usava. Mi ricordo nei paesi qui del Trentino, dava del voi uno a suo padre, gli dava del voi. Certo, è vero. Ai miei tempi. Che tu lo sai che sono 94, quindi che ho quasi un secolo sulle spalle. Ecco, in quei tempi là, il voi era proprio, diciamo, la parlata in famiglia. Voi madre, voi padre, il caso era raro che si dicesse anche tu fratello, allora. Poi dopo pian pianeta l'evoluzione arriva a Tizio Caio Sempronio, ci siamo trovati che adesso siamo a parlare in italiano, in un italiano calderonico più di allora. Ecco che veniamo a quello che io volevo dire. Io quando ho cominciato a pubblicare i miei libri mi hanno fatto un'osservazione, no? Ma lei che italiano parla? Allora io ho detto, io parlo un italiano che non c'è l'introduzione di parole tecniche, coniate che so io, né di nessuna lingua straniera. Io, misero scrittore o povero scrittore, che non ho fatto le università e che so io, voglio scrivere bene o male, ma in lingua italiana, cioè senza l'introduzione di cose straniere. E per questo che ho preso anche, diciamo, il saggio, sì, è vero, noi non abbiamo mai riscontrato una parola fuori dall'italiano, povero comunque, che sia straniera, che sia queste cose. Ed è quello continuo, perché io sono fedele, cioè la lingua italiana per me l'ho sempre vista. Sono stato in 47 paesi stranieri, sono stato, no? Parlavano meglio gli stranieri in italiano che noi italiani, che era questo il discorso. E noi abbiamo dei problemi con l'italiano ancora oggi. Molta parte della popolazione non parla il congiuntivo scomparso. Ma no, oggi non sai quello, non sai come devi comportarti col linguaggio. Visto con lo straniero, non con le parole straniere. Sì. Incontro spesso dei buffoni che mi dicono: oh, ma quello le ha un matto, quello così, quell'altro, quello è un sognatore, eccetera, però dopo. Ecco, tutto qui. Va bene, perfetto, allora. Concludiamo. Io penso di avere soddisfatto. Qua non ho visto niente perché parlavo. Beh, ma è giusto, dovevano vedere loro, mica noi. Ecco, mi dispiace.